loro reportage. Glutine in etichetta. Cambiano le regole europee sui prodotti per celiaci. Diana Marino. Novità per i celiaci, il glutine in etichetta. Sono cambiate le regole sull'indicazione dei prodotti per celiachia, diciture fondamentali per la loro rimborsabilità. Già in vigore dal 2014, il regolamento europeo che prevede l'indicazione in etichetta degli alimenti senza glutine è ora applicabile dal 20 luglio 2016 e l'Italia si è già allineata. Pubblicato i primi di luglio sulla Gazzetta Ufficiale Italiana il decreto che adegua la normativa nazionale. In particolare, il provvedimento del Ministero della Salute adotta le nuove diciture introdotte dall'Europa senza glutine specificamente formulato per celiaci, oppure senza glutine specificamente formulato per persone intolleranti al glutine. Spiega che cosa cambia punto per i celiaci Daniela Maurizi, amministratore delegato del gruppo Maurizi, consulenza in sicurezza alimentare e dal 2016 segretario del Consiglio Nazionale dei Chimici. I celiaci troveranno già gli alimenti confezionati con le nuove etichettature, perché appunto il regolamento viene applicato dal 20 luglio 2016, che non ci sarà più il termine dietetico, diciamo siamo abituati a vedere, questa era una vecchia normativa italiana, e rimarranno però le diciture del senza glutine per i prodotti che contengono meno di 20 mg chilogrammo di glutine e la dicitura con contenuto di glutine molto basso invece per quei prodotti che contengono meno di 100 mg chilogrammo. Ci saranno due diciture facoltative, cioè quella di scrivere adatto ai celiaci su questi prodotti oppure adatto agli intolleranti al glutine. Le aziende però in tutto questo tempo, dal 2014 ad oggi, avrebbero dovuto e hanno dovuto organizzarsi, adattarsi e uniformarsi a queste indicazioni. L'intolleranza al glutine troverà una ampia gamma di prodotti marcati senza glutine. Perché? Perché il regolamento dà la possibilità all'azienda di mettere il senza glutine sia su alimenti specificatamente formulati per celiaci e quindi in quel frumento viene sostituito con per esempio il riso, il mais come nella pasta, nel pane o nella pizza, oppure anche con frumento appositamente deglutinato. Poi ci sono degli alimenti invece che sono diciamo alimenti elaborati che anche se contengono ingredienti che naturalmente sono privi di glutine potrebbero per esempio per una contaminazione nella fase di produzione e di stoccaggio contenere glutine. Faccio un esempio, i sughi pronti, prodotti per preparare l'insalata di riso eccetera. Anche in questo caso il normatore dà la possibilità di mettere la dicitura senza glutine. Non si potrà mettere invece senza glutine in tutti quei prodotti che naturalmente sono privi di glutine e sono diciamo semplici monoingrediente, per esempio il latte, a prescindere da chi lo confeziona, da chi lo produce, è latte. È una possibilità o un obbligo per le aziende? Il senza glutine va messo ed è una possibilità ovviamente, chiaramente diciamo un mercato che alle aziende fa abbastanza gola perché sappiamo che il numero di celiaci è un aumento proprio anche per la possibilità di rilevazione della malattia celiaca sempre più approfondita. Il senza glutine è obbligatorio, si possono appunto aggiungere anche le diciture specificatamente formulato per celiaci oppure specificatamente formulato per persone intolleranti al glutine. Questo ovviamente nel caso che dicevamo prima, cioè di alimenti con sostitutivi del frumento. Qualche esempio? Gli alimenti sostitutivi, abbiamo il pane, la pasta, la pizza, i prodotti da forno, i cornetti, le torte, no? Tutto quello diciamo che di solito si fa con il frumento e derivati. Dall'altra parte invece abbiamo i prodotti composti, non so, per esempio prodotti surgelati di pasti pronti, piuttosto che sughi pronti, condimenti, quindi tutto quello che è prodotto con magari verdure, che quindi il glutine non ce l'hanno, però in una produzione un po' magari elaborata e quindi un processo che potrebbe in qualche modo essere contaminato da glutine. In questo c'è un vuoto normativo, nel senso che il Ministero non ci ha detto quali sì e quali no. L'Europa comunque dovrà eseguire dei controlli e c'è già stato un periodo finestra di informazione e adeguamento per le aziende, come spiega Paolo De Castro, europarlamentare e presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale. È un obiettivo di trasparenza nei confronti del consumatore e delle tante persone che hanno non solo i celiaci ma in generale i problemi col glutine. Noi dobbiamo darle queste informazioni, è stata una battaglia di trasparenza e di informazione che dobbiamo fare, quindi è ovvio che adesso si dovranno adeguare e l'Europa dovrà controllare che questo adeguamento sia corretto. Dal punto di vista proprio delle indicazioni, permetterà anche un risparmio per gli stessi consumatori? Noi siamo sempre per dare informazioni. Quando siamo contrari è perché invece di dare informazioni vogliamo condizionare la scelta. Questo non a caso abbiamo fatto e continuiamo a fare una battaglia sui semafori inglesi, perché il semaforo non è un'informazione aggiuntiva al consumatore, ma è un modo per condizionare la scelta. Mettere rosso quando si supera una certa quantità di grasso, di zucchero, di sale ad un alimento è sbagliato, perché non è la quantità di sale che contiene l'alimento, di zucchero, di grasso, ma è quanto di quell'alimento ne mangi che determina la giustezza o meno in una dieta equilibrata. Diversamente, le informazioni sul glutine piuttosto che le informazioni sull'origine eccetera sono tutti passi avanti importanti e conquiste per i consumatori. E anche un mercato da questo punto di vista in tutta Europa. Questo semplifica anche la libera circolazione delle merci, semplifica il lavoro delle imprese e rende molto più semplice anche una norma unica per tutti. E la buona notizia è che grazie al nuovo regolamento il Ministero della Salute conferma per molti prodotti per i quali aveva concesso la rimborsabilità questa possibilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Le diciture infatti consentono dal 20 luglio agli alimenti senza glutine destinati ai celiaci di accedere al Registro Nazionale degli Alimenti Erogabili. Confermata quindi la modalità di assistenza prevista per i celiaci nei livelli essenziali di assistenza, come spiega Marco Silano, direttore del reparto di alimentazione, nutrizione e salute dell'Istituto Superiore di Sanità. Gli alimenti che sono disponibili per i soggetti affetti da celiachia sono inseriti dal Ministero della Salute all'interno del Registro Nazionale degli Alimenti, dove sono elencati tutti i prodotti in cui un alimento contenente glutine viene sostituito con un ingrediente equivalente ma privo di glutine e che possono quindi essere erogati gratuitamente nell'ambito del tetto mensile di erogazione gratuita di cui dispongono tutti i soggetti diagnosticati con celiachia. Per questi prodotti è concessa la rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale? Esatto, un prodotto formulato per i celiaci affinché possa essere rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale deve avere due caratteristiche. Uno, come si dice in gergo, deve essere succedaneo di un prodotto disponibile per il consumo da parte di tutti in cui l'ingrediente principale contiene glutine e in cui questo ingrediente principale è sostituito da un ingrediente equivalente ma privo di glutine o deglutinato, e dall'altra parte deve essere inserito all'interno del Registro Nazionale degli Alimenti. Che cosa bisogna fare per ottenere questo rimborso? Non è un vero e proprio rimborso, ma è un'erogazione gratuita. Per cui una volta che un soggetto ha avuto la diagnosi da parte del medico di un centro accreditato per la diagnosi, deve andare alla ASL di competenza per il territorio di residenza e ottiene il 12 ricette, ciascuna valida un mese, del valore variabile a seconda del genere e dell'età, con cui può andare in farmacia o in alcune regioni addirittura al supermercato e acquistare prodotti per pari al valore indicato sulla ricetta stessa, che per gli adulti è di 140 euro per gli uomini e di 99 euro per le donne. La nuova legge applicabile dal 20 luglio 2016, che ovviamente deriva dal regolamento europeo, amplia questa gamma di prodotti. Cambia qualcosa? Cambiano due cose. Uno è che un prodotto, per essere rimborsabile, non solo come era prima può essere costituito da materie prime prive di glutine, ma anche da materie che all'origine avevano il glutine e che poi sono state deglutinate, cioè gli è stato tolto il glutine attraverso dei processi tecnologici industriali, sia chimici che fisici. E dall'altra parte cambia anche quello che è scritto in etichetta, perché fino adesso, fino al 20 luglio, in etichetta si potrà scrivere solo senza glutine. Dal 20 luglio invece questo claim viene modificato e potrà essere scritto in etichetta senza glutine appositamente formulato per celiaci, senza glutine adatto per celiaci. I primi prodotti, cioè quelli che vanno inseriti nel registro, dovranno riportare il primo claim, cioè senza glutine appositamente formulato per celiaci. Come si fa a distinguere? Quelli rimborsabili sono quelli che portano il claim appositamente formulato per celiaci e che hanno un bollino verde del Ministero della Salute che indica che quel prodotto è inserito nel Registro Nazionale degli Alimenti. Non saranno rimborsabili assolutamente in nessun modo tutti quei prodotti che o non hanno il bollino verde del Ministero della Salute nonostante abbiano il claim senza glutine appositamente formulato per celiaci o che hanno il claim senza glutine adatto per celiaci. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Euro Reportage. In collaborazione con Euronet Plus.